Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ho provato a spiegare ieri in un messaggio vocale che le ho mandato, perché sono riuscito a recuperare il numero dei genitori, che in realtà non c'è una scuola per fare il sindaco, è comunque il mestiere più bello del mondo, perché dal punto di vista umano vivi la vita dei tuoi concittadini. Mi fa piacere che ci sono dei bambini che già a quell'età mostrano tanta passione e tanto interesse per la propria città. Il sindaco De Caro, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di Bari, parlava di questa bambina che gli ha scritto perché dice che vuole fare la sindaca e vuole sapere dal sindaco, che è il presidente degli altri sindaci dell'ANCI, come si fa, che scuole bisogna fare per diventare, aspirare a diventare primo cittadino, prima cittadina di una città. Quindi stiamo parlando di una bambina fortunata che ha gli strumenti per aspirare a ricoprire un ruolo di questo tipo e ha avuto anche una risposta diretta dal sindaco di Bari. C'è qualcuno che molto meno fortunato e molte altre ragazzine, come per esempio quella di quella storia di cui ci occuperemo tra l'altro stasera, una ragazzina di origine del Bangladesh la cui famiglia e cui genitori le hanno rasato completamente i capelli perché si rifiutava di mettere il velo, e a scuola ha raccontato la sua storia e gli insegnanti, soprattutto la preside, hanno denunciato la famiglia per maltrattamenti. Adesso lei e le sorelle sono state sottratte a questa famiglia. Ce ne occuperemo anche per capire dov'è il limite tra il diritto di educare i propri figli secondo i propri valori e dove invece c'è la coercizione che poi trascende in reato. Di questo ci occuperemo, di molte altre cose, parleremo di meteo e poi il bilancio della politica della settimana, della politica italiana, come sempre il venerdì, ultima puntata della settimana di Effetto Notte. Quindi armatevi di numero o di collegamento con la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri messaggi e le vostre osservazioni. Il numero per WhatsApp ed SMS è sempre quello, 349-238-6666, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook del programma, che è lì per voi giorno e notte. Prima di approfondire i temi, come sempre, lo sapete, io vi riassumo la giornata. Bologna, la procura toglie la figlia 14enne alla famiglia, i genitori le rasavano a zero i capelli perché non indossava il velo, la studentessa di terza media toglieva il copricapo appena fuori casa. Femminicidio, uccise la moglie a martellate, il tribunale di Bari lo condanna a 6 anni e 3 mesi. Movimento 5 Stelle, Grillo e Di Battista indagati per diffamazione contro l'ex candidata sindaca a Genova Cassi Matis. Lieve malore per Di Maio, ma nulla di preoccupante. Partito Democratico, ultime ore per il voto, nei circoli Renzi avanti ma lite sui numeri. Stati Uniti, Trump firma i decreti per combattere il deficit commerciale americano nei confronti dei partner. Siamo in guerra commerciale. E su Obama la Casa Bianca annuncia sempre più elementi contro di lui. L'omicidio di Alatri, uno dei due fermati dice io non c'entro, il GIP però conferma gli arresti. Oggi camera ardente per il 20enne pestato a morte, domani funerali. Pesca, niente telline per un mese, a tavola a rischio telline clandestine, crollo dei prezzi all'ingrosso in un'annata super produttiva. Partiamo quindi appunto da questa storia emersa oggi di una ragazzina di terza media della famiglia originaria dal Bangladesh. Sono stati denunciati per maltrattamenti psicologici reiterati padre e madre di questa ragazzina residenti a Bologna, che obbligavano la figlia a indossare il velo. La ragazza, ma anche le sue due sorelle, sono state date in affidamento a una comunità. A scatenare il caso è stata la denuncia della scuola, dove la ragazza, che frequentava con profitto la terza media, si è presentata con i capelli completamente rasati, raccontando che il taglio era stato una reazione della famiglia al suo rifiuto di indossare il velo. La preside ha deciso di informare i carabinieri e la procura è intervenuta per sottrarre la ragazza alla famiglia. Poi, vi dicevo, torneremo su questo caso appunto per capire il limite tra violenza, coercizione e diritto di educare i propri figli. E ora sentite qual è stata la condanna seguita a un femminicidio: 6 anni e 3 mesi di reclusione, una condanna con diverse attenuanti per l'uomo che uccise la moglie con un martello in provincia di Bari. Non si sarebbe accorto che la busta lanciata contro la moglie durante un litigio conteneva un martello che, colpendola alla testa, l'ha poi uccisa. Per questo motivo Pietro De Mattia, reo confesso dell'omicidio volontario della coniuge Antonia Cirasola, di 55 anni, è stato condannato a 6 anni e 3 mesi di reclusione. L'omicidio è successo a Gioia del Colle, in provincia di Bari, nel 2015, il giorno dopo San Valentino. Ora è arrivata la sentenza della giudice dell'udienza preliminare. Accolta la tesi della difesa e riconosciute le attenuanti generiche della provocazione, che hanno portato a una doppia riduzione della pena grazie alla scelta di ricorrere al rito abbreviato. Il pubblico ministero, invece, aveva chiesto una condanna a 14 anni. Dopo l'omicidio, il 68enne chiamò i soccorsi per poi confessare quanto successo in casa: l'ennesima lite, lo scatto d'ira e il lancio della busta, fatale per la moglie. Fu sottoposto immediatamente agli arresti domiciliari, ai quali si trova tuttora. Il legale dell'uomo, dopo la lettura della sentenza, ha precisato che il primo pensiero del condannato è andato alla moglie, che non c'è più. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Verrebbe dire, oltre al danno, la beffa, e naturalmente ha lanciato il martello a sua insaputa. A quanto pare, se queste sono le condanne per i femminicidi, per questo fenomeno ormai così terribile nel nostro paese, ci possiamo immaginare quindi anche nella mentalità che gravità possa assumere un fatto di questo tipo. Stati Uniti adesso, siamo in una guerra commerciale, non usa mezzi termini il segretario del commercio americano Wilbur Ross per definire la politica dell'amministrazione Trump, che oggi ha dato il via libera alla politica protezionistica firmando due nuovi decreti sul commercio. Revisione dei rapporti commerciali degli Stati Uniti con ogni paese e rafforzamento delle regole antidumping sono gli obiettivi dei due ordini esecutivi sul commercio che lanciano l'offensiva protezionista di Donald Trump per recuperare i 500 miliardi di deficit nella bilancia commerciale con il resto del mondo, spiega il presidente. Nel mirino c'è innanzitutto la Cina e non a caso l'annuncio avviene a pochi giorni dalla visita del presidente Xi Jinping, ma anche Germania, Giappone, Corea del Sud e Messico, i paesi cioè che vantano il più ampio attivo commerciale. E mentre il ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel invita l'Unione Europea a prendere in considerazione un ricorso all'Organizzazione Mondiale del Commercio, da Roma i leader delle Confindustrie dei principali paesi del mondo mettono in guardia dal rischio protezionismo. La minaccia del presidente Trump non potrà essere attuata senza tenere conto della posizione degli imprenditori, dice il presidente della Camera di Commercio americana John Hopkins. Noi abbiamo 3 milioni di aziende che faranno sentire la loro voce e la Casa Bianca dovrà ascoltarle. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra qualche giorno Trump incontrerà il presidente cinese sullo sfondo l'ipotesi di dazi anche sui prodotti europei, preoccupazione per la politica commerciale americana anche da parte degli industriali del G7 riuniti oggi a Roma. Le ipotesi di protezionismo e dazi preoccupano le organizzazioni imprenditoriali del G7 che da Roma lanciano un messaggio preciso in vista del vertice di fine maggio a Taormina. Priorità allora alla difesa del libero scambio perché i mercati aperti, spiegano, rappresentano la base per lo sviluppo e la crescita e per una società con meno disuguaglianze. Non bisogna cavalcare ansietà ma individuare soluzioni nell'interesse di tutti, avverte quindi sui dazi il presidente di Confindustria Boccia. Quando scatta, diciamo, una politica neoprotezionista non è mai a condizioni date, poi ha degli effetti di reazione di altri e quindi il gioco poi alla fine, diciamo, ha una sommatoria negativa per tutti. Sul libero mercato non ci possono essere ambiguità, dice il presidente del Consiglio Gentiloni, ospite dei lavori in Confindustria. Senza libertà economica non c'è alcuna possibilità di crescita e di sviluppo. Un eventuale scontro Stati Uniti-Europa sarebbe pericoloso, aggiunge il ministro dello sviluppo economico Calenda. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla politica italiana. Il vicepresidente della Camera, esponente del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha avuto un malore nel pomeriggio, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Gemelli a Roma attraverso il pronto soccorso con forti dolori addominali, però dai primi accertamenti non è emerso un quadro di particolare gravità. E sempre a proposito del Movimento 5 Stelle, la notizia di oggi è che Beppe Grillo e Alessandro Di Battista sono indagati a Genova per diffamazione dopo la querela della candidata sindaca scomunicata Marika Casimati. CPM dovrebbe sentirli a breve, è una battaglia per la trasparenza, una battaglia di tutti, ci sentiamo come Davide contro Golia, ha scritto Casimatis, escludendo la possibilità di candidarsi con un'altra lista. Depositato al Tribunale Civile anche il ricorso contro l'annullamento dal risultato delle comunità e delle comunali. Poi torniamo a parlarne nel bilancio della politica della settimana e parliamo anche del PD, che sono le ultime ore queste per il voto nei circoli in vista delle primarie. Dopo il voto in 2000 circoli con un tasso di affluenza al 59,2%, le percentuali dei tre candidati alla segreteria PD danno l'ex presidente del Consiglio Renzi in vantaggio col 69,18%, Andrea Orlando al 27,06% e Michele Emiliano al 3,73%. Poi ce ne occuperemo. Adesso invece torniamo sulla Brexit. L'Europa mette sul tavolo le carte per i negoziati. Sono state rese note le linee guida negoziali comunitarie che i 27 leader dovranno approvare a fine aprile. Dopo le 6 pagine della lettera di divorzio britannica, l'Unione Europea per bocca del presidente Tusk mette nero su bianco le condizioni della separazione. The UK honors all financial commitments. Da Malta Tusk ha chiarito che l'approccio sarà in due fasi. Prima saranno stabiliti i termini del divorzio e solo successivamente sarà discussa la nuova partnership tra Londra e Bruxelles. Respinta l'idea britannica di affrontare insieme le questioni, Tusk ha precisato che la Gran Bretagna dovrà onorare tutti gli impegni finanziari sottoscritti. Al di là dei tecnicismi però, che saranno fondamentali, in questo delicato puzzle diplomatico ci sono questioni pratiche da risolvere. La prima riguarda i tempi. Ufficialmente entro marzo 2019 Londra sarà fuori, ma poiché il possibile trattato commerciale post-Brexit potrebbe dover passare la ratifica dei parlamenti nazionali, un periodo di transizione ulteriore non è da escludere. Il documento europeo affronta anche i problemi di cittadini e imprese. L'Europa chiede garanzie sullo status dei suoi cittadini residenti oltremanica. Per loro non cambia nulla nel prossimo biennio, poi si vedrà. Chi invece progetta un futuro lavorativo o di studi nel Regno Unito deve considerare che dopo il 2019 potrebbero aumentare le tasse universitarie e non sono da escludere quote per gli immigrati. Da considerare anche i rischi di un possibile vuoto giuridico per le imprese europee operanti oltremanica. Da fine maggio, col fischio d'inizio dei negoziati, occorrerà trovare risposte a tutte queste domande. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Venezuela adesso, dove ci sono proteste di piazza per il secondo giorno consecutivo, c'è la condanna internazionale, il richiamo di diversi ambasciatori, la sentenza della Corte Suprema venezuelana che ha fatto il tutto, che di fatto ha esautorato il Parlamento, ha tolto cioè potere al Parlamento in favore invece del presidente Nicolas Maduro, ha causato questa cosa una levata di scudi ed è stata definita un colpo di Stato. Oggi Maduro però ha rilasciato una replica dicendo: il Venezuela respinge questo furioso assalto dei governi intolleranti di destra e proimperialisti in America Latina su ordine del Dipartimento di Stato, e ha detto è falso che ci sia stato un golpe in Venezuela. Per quanto riguarda l'immigrazione, questa notizia che riguarda una dichiarazione del presidente del Consiglio Gentiloni, che ha avuto un incontro con il presidente del Niger e ha firmato un accordo che prevede un aiuto finanziario di 50 milioni da parte dell'Italia con l'obiettivo di rafforzare la capacità del Niger di controllo delle frontiere per ridurre i flussi migratori che dal Niger alla Libia e dalla Libia arrivano in Unione Europea attraverso l'Italia. E poi per la cronaca, l'omicidio di Alatri. Restano in carcere Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, due ragazzi fermati con l'accusa di omicidio volontario nei confronti di Emanuele Morganti, il ventenne pestato a morte la notte tra venerdì e sabato fuori da un locale di Alatri. Oggi intanto centinaia di parenti ed amici hanno dato il loro ultimo saluto ad Emanuele alla camera ardente allestita al Policlinico Romano di Tor Vergata, e domani ci saranno i funerali. Poi ci colleghiamo per capire con Alatri, per capire quali sono gli ultimi sviluppi dell'inchiesta. E si è chiuso oggi il G7 della cultura. Sentiamo che cosa è emerso. Il G7 della cultura, il primo nella storia organizzato dall'Italia in vista del G7 di maggio a Taormina, si chiude con la dichiarazione di Firenze, un appello dei 7 ministri dei paesi più industrializzati del mondo per tutelare i beni culturali archeologici minacciati dal terrorismo e a rischio calamità naturali, come il terremoto che rasa al suolo Amatrice e altre centinaia di paesini ricchi di storia. I siti archeologici come Palmira, dice il ministro Dario Franceschini, sono stati colpiti perché simbolo della diversità, ma la cultura può promuovere cambiamenti e pace, e Franceschini lancia l'Erasmus della cultura. Con la collega francese e la collega tedesca abbiamo individuato uno spazio di lavoro che è l'idea di un Erasmus cultura. Avere nel settore della cultura la possibilità di scambi permanenti tra musei, istituzioni culturali, teatri, musica, davvero può essere l'occasione di costruire ancora di più una cittadinanza. Insomma, ci sono molte cose da fare e penso che le faremo molto volentieri insieme. Dai paesi del centro Italia arriva un appello: non dimenticateci, dice il sindaco di Matelica, Alessandro Del Priori, rimettiamo in piedi una chiesa, salviamo gli affreschi e i rosoni, restituiamo alle persone un luogo dove riconoscersi come comunità. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze. E parliamo di pesca. Da domani niente telline italiane in tavola per il mollusco, protagonista di spaghetti, bruschette, eccetera. Entra in vigore il fermo pesca per 30 giorni. Nel comparto dilaga il commercio illegale, complice una produzione quadruplicata rispetto alla stagione scorsa, mai vista da oltre 20 anni. Ed inoltre, proprio a partire da domani, gli italiani cominceranno a consumare solo pesce proveniente dall'estero. Perché? Perché scatta il Fish Dependence Day, il giorno in cui termina l'autosufficienza di prodotto ittico, di pesci, vale a dire la capacità di soddisfare soddisfare la domanda interna con il pescato della nostra flotta nazionale, lo fa sapere l'associazione ambientalista Mederec Act, che, riprendendo i dati diffusi dalla New Economic Foundation, sottolinea come la pesca indiscriminata abbia provocato il declino delle risorse ittiche nel Mediterraneo, consegnando quindi l'Italia a questa dipendenza sempre maggiore dalle importazioni. Per chiudere questa notizia, che siamo un po' alla scoperta dell'acqua calda, viene dagli Stati Uniti questo studio: starnuti che non finiscono più, naso chiuso per giorni, uno dei motivi per cui i raffreddori durano più a lungo per alcuni individui sarebbe il senso di solitudine. Secondo uno studio della Rice University a Houston, le persone che si sentono isolate, senza legami umani sociali forti, soffrirebbero di raffreddori peggiori e comunque di sintomi più duraturi. Sarebbe da dire che la solitudine aggrava qualsiasi cosa, non credo che faccia piacere più o meno a nessuno. Bene, e su questo possiamo chiudere questa prima parte. Tra poco cominciamo allora ad affrontare alcuni argomenti, appunto questa storia di questa ragazzina nella famiglia originaria del Bangladesh, che è stata completamente, i cui capelli sono stati rasati dai genitori, quindi sono stati denunciati per maltrattamenti, e poi faremo ovviamente il bilancio della politica della settimana. Tra poco pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure c'è il numero WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie le avete sentite nel riassunto della giornata, qualche fastidio di gola, e quindi se mi sentite tossire, cioè, tappate le orecchie. Adesso cominceremo, come dicevo, ad affrontare alcuni argomenti particolari, come sempre, essendo venerdì, ultima puntata della settimana di Effetto Notte, tra poco anche il bilancio della politica della settimana, le tante cose successe nella nostra politica in questi giorni. E per i vostri messaggi vi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio, oppure il numero per messaggi WhatsApp, che è il 349-238-6666. Dice per esempio Luca: l'omicidio di Alatri mi ha colpito molto, mi ha colpito assai, spero che vengano giustiziati in carcere. Vabbè, qua ovviamente la giustizia fai da te, abbiamo visto poi che cosa può creare, provocare. E poi alcune invece che riguardano la politica, che magari dopo con più tempo leggerò. Vi ricordo allora quali sono stati i fatti principali della giornata. Trump che firma i due decreti per combattere il deficit commerciale statunitense nei confronti dei partner, e dice la Casa Bianca è in atto una guerra commerciale, mentre il nostro Presidente del Consiglio Gentiloni dice bisogna scommettere di più, più che mai sul libero mercato. E poi Grillo e Di Battista indagati per diffamazione contro l'ex candidata sindaca a Genova Cassi Matis. Lei dice questa è una battaglia per la trasparenza. Oggi c'è stato un malore per Di Maio dei 5 Stelle, anche se le notizie sono abbastanza rassicuranti. E poi per il PD ultime ore di voto nei circoli, Renzi sarebbe avanti al 69,18%, Orlando al 27,06%, Michele Emiliano al 3,73%. E poi questa vicenda di questa 14enne che a Bologna rifiuta il velo, in questa famiglia originaria del Bangladesh i suoi genitori le rasano completamente i capelli, lei a scuola racconta la storia e la procura toglie la ragazza e le altre figlie ai genitori. L'omicidio di Alatri, uno dei due fermati dice io non c'entro, c'è stato l'interrogatorio di garanzia ma il GIP conferma gli arresti. E poi l'ex presidente della Regione Sicilia Lombardo, condannato a 2 anni per voto di scambio, assolto dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. E siamo allora al bilancio della politica italiana di questa settimana, che va, lo ricorderete, dalla gaffe del ministro del lavoro Poletti su giovani, lavoro e calcetto, al caso Minzolini, alla sospensione decisa ieri di 42 deputati del Movimento 5 Stelle per una 15ina di giorni, poiché tentarono di fare irruzione lo scorso 22 marzo nell'ufficio di presidenza della Camera mentre si votavano le delibere sulle pensioni dei parlamentari. Sino alla notizia di oggi, che è quella che vede Beppe Grillo e Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle indagati dopo la querela della candidata sindaca a Genova Marika Cassi Matis, esautorata da Grillo dopo la sua vittoria alle comunarie. E su tutto ciò coinvolgo Emilia Patta del Sole 24 Ore. Bentornata Emilia. Buonasera. Cosa partiamo dalla gaffa del ministro Poletti? Anche gaffa, anche se molti lo hanno difeso dicendo ma in realtà, ricordo che cosa ha detto il ministro del lavoro Poletti nei giorni scorsi, ha detto in un incontro con dei giovani, con gli studenti, ha detto che forse è più produttivo andare a giocare a calcetto e quindi intessere relazioni che non presentare dei curriculum. Qualcuno lo ha difeso dicendo Poletti ha detto la verità, ha detto quello che altri non hanno il coraggio di dire, mentre le opposizioni hanno chiesto fermamente le sue dimissioni. Naturalmente Poletti di lì non si è mosso. Però secondo te, Emilia, c'è una questione di opportunità oppure no? Cioè il ministro può dire queste cose, al di là che sia verità o che sia invece un incentivare a evitare di studiare e di impegnarsi per la meritocrazia? Ma sicuramente c'è una questione di opportunità, insomma, non andrebbero dette queste cose, anche se poi tutti sappiamo che non è che il lavoro si trova mandando curriculum a aziende sconosciute, insomma, almeno nel settore del privato sono importanti le conoscenze, questo lo sanno tutti, ma insomma un ministro non dovrebbe dirlo, su questo non c'è dubbio, ma Poletti non è nuovo a queste cose, insomma. L'ultima che aveva creato un po' di polemica, ma bisogna andare a votare a giugno, dice, perché se no ci tocca fare il referendum sull'articolo 18 e poi lo perdiamo e tutti diranno, ma insomma alla fine ha detto quello che pensavano tutti, tanto è vero che anche se l'articolo 18 è stato tolto dal tavolo dai giudici, però il governo insomma ha eliminato il problema dei voucher, no? Quindi in realtà dice delle verità. Il problema è di opportunità e secondo me anche una riflessione su il politico di professione tanto attaccato, no? Negli ultimi anni, e invece il politico che viene dalla società civile. Un politico di professione non insulta una parte del suo elettorato, insomma questo è proprio vitale per lui, mentre chi viene dalla società civile, ma anche i professori, i tecnici, a volte non hanno filtri, dici? Non hanno filtri. È successo anche con Monti, con la Fornello, no? Ricordiamo Monti che parlava dei giovani, qualcuno del governo Monti parlava dei giovani fannulloni, qualcuno stesso, Bamboccioni ancora prima, Bamboccioni, lui stesso che disse una generazione perduta. Ecco, sono cose che un politico di professione, errori che un politico di professione non fa. Senti, Emilia, ricordo, l'avevo detto anche questa settimana, che il presidente della divisione calcio a 5, Andrea Montemurro della FIGC, ha detto devo smettere purtroppo il ministro Poletti, perché questo sport dà solo divertimento purtroppo e non il lavoro. Se fosse vero in Italia, ha detto, non esisterebbe la disoccupazione, perché ha detto è lo sport più diffuso tra giovani, donne, adulti, conta oltre 100.000 iscritti eccetera eccetera, e poi l'ha voluto correggere, ha detto comunque è il calcio a 5, quindi non il calcetto. Ora io non vorrei che Poletti si fosse confuso e che quindi intendesse il biliardino, quindi magari chi va adesso si getta a giocare a calcetto invece dovrebbe giocare a biliardino, quindi sarebbe meglio precisare che cosa intendesse esattamente. Io me la cavo con tutte e due, quindi insomma non avrei problemi. Invece sul caso Minzolini, ricordo senatore di Forza Italia che era stato salvato giorni fa dal Senato dalla possibile decadenza prevista dalla legge Severino, che prevede che pubblici amministratori e politici eccetera, se sono stati condannati in via definitiva a più di 2 anni, devono vedere sospesa la loro carica per un tot di tempo, no? Lui è stato condannato in via definitiva, Minzolini, a 2 anni e 6 mesi per peculato, perché avrebbe usato in modo inopportuno la carta di credito della RAI quando era direttore del TG1. Però è stato salvato la decadenza, lui ha presentato le dimissioni in questi giorni. Vogliamo sentire anzi questo passaggio di Minzolini nell'intervista di Betta Fiorito. Ho presentato la lettera di dimissioni e l'ho fatto perché di fatto lo avevo già detto esattamente 8 mesi fa, quando ci fu la riunione della giunta per l'autorizzazione a procedere. Io credo che la coerenza sia un elemento fondante della politica. Però adesso tutto spetta all'Aula, lei si potrebbe dimettere, però l'Aula respingere le dimissioni. Far più di questo non posso, posso suicidarmi, ma ci sto ancora pensando e penso che forse non valga la pena. Quello che a me interessa, se quando ci sarà la riunione, è ragionare sui rapporti che ci sono stati in questi anni tra politica e magistratura, ponendo una questione che, come è assolutamente sacrosanto che la magistratura abbia la sua autonomia dalla politica, è anche giusto il contrario. Allora Emilia, prima che tu commenti la vicenda Minzolini, vedo un Crozza Poletti, vediamo sul canale 9. No, ho capito, ma no, con quelle mamelle lì che è anche difficile tenere la palla sotto le zampe. Sì, vabbè, lasci stare le mucche. Come ha fatto a trovare il lavoro da ministro lei? Guardi, questo dovrebbe chiederlo a Renzi, perché anch'io di mio questa cosa qua non l'ho mica mai capita. Ecco, non l'ho ancora capita. Va bene, su questo possiamo salutarlo. Che dice Emilia del caso Minzolini? Beh, è un caso al di là del merito, è un classico caso di conflitto tra politica, primato della politica e magistratura, insomma, c'è andata in mezzo una legge votata dal Parlamento in un'epoca diversa, no? Che era quella del governo Monti, per cui però insomma un po' questo, anche perché i senatori del PD che hanno disatteso, no, l'indicazione del voto in giunta, 19 hanno votato a suo favore. Sì, se si guarda bene, insomma, non è che siano venduti a Forza Italia o inciuciosi, perché ce ne sono, ad esempio c'era anche Ugo Sposetti, no, il vecchio, cioè un personaggio come Tonini, che è un renziano, insomma una persona di buon livello politico, quindi se si va a guardare i nomi si capisce che non era una cosa organizzata d'accordo con Forza Italia, ma c'erano delle ragioni che i parlamentari sentono, no, di orgoglio rispetto alla magistratura. Poi è anche vero che insomma andrà a finire forse che Menzolini, appunto, non potendosi suicidare, come dice lui stesso simpaticamente, probabilmente verrà salvato, perché i voti sono a scrutinio segreto. I voti perché adesso tipo. È sempre il Senato, no, che deve decidere se accettare o meno le sue dimissioni. È sempre il Senato che respinge o accetta le dimissioni di un senatore. Invece, quindi questa dimissione, invece sospensione decisa ieri di 42 deputati del Movimento 5 Stelle, lo ricordavo prima, per sospesi per una quindicina di giorni perché tentarono di fare irruzione nell'ufficio di presidenza lo scorso 22 marzo mentre si votavano le delibere sulle pensioni dei parlamentari. Loro dicono è una bella botta, ma noi su questa battaglia andiamo avanti. Ma per venire alla notizia più recente, quella di oggi, Emilia, con Beppe Grillo e Alessandro Di Battista indagati dopo la querela dell'ex candidata sindaca Cassimatis, no, a Genova. Sì. Secondo te ha fatto bene? Lei intanto ha querelato Beppe Grillo perché lui poi ha giustificato il fatto di averla silurata dicendo che lei ha danneggiato ripetutamente l'immagine del Movimento 5 Stelle, e in più lei è anche ricorsa al Tribunale Civile per l'annullamento di queste comunarie che c'erano state, che lei aveva vinto. Ma sì, insomma, sentendosi così attaccata dal suo punto di vista ha anche fatto bene, perché insomma l'effetto paradossale poi di queste confuse selezioni del Movimento 5 Stelle è che poi ci vanno di mezzo persone che poi rovinano la propria immagine, insomma, quindi secondo me lei ha fatto bene. Qui c'è un po' il problema che non è di poco conto, secondo me, delle regole democratiche in generale in tutti i partiti, non solo nel Movimento 5 Stelle, ma che nel Movimento 5 Stelle hanno un effetto per così dire macroscopico. Non è la prima volta che Grillo decide che un candidato non va bene, annulla tutto e rifà tutto, era successo anche a Milano, e, insomma, quindi una regola, o non si fanno, ecco, queste selezioni, che è pure legittimo che il segretario del partito decida lui, punto e basta, no? Come è accaduto per molti anni, come ha fatto Berlusconi sempre, ma se si fa una selezione deve essere fatta con delle regole un minimo chiare, condivise, votate da qualche organo di partito, insomma è una situazione particolare quella del Movimento 5 Stelle, che, ma nel loro interesse, se vogliono davvero candidarsi in un futuro a guidare il paese o a guidare insomma regioni, enti pubblici, dovrebbero chiarire loro nel loro interesse. Comunque risultano ancora dagli ultimi sondaggi il primo partito in Italia. Ti leggo velocissimamente, poi ci dobbiamo lasciare, due messaggi con Alberto che scrive: ma che cavolo state dicendo, io ho assunto 10 persone negli ultimi 2 anni e tutti con il curriculum di sconosciuti. E poi un altro ascoltatore che dice: io sono uno dei pochi che non credo alla gaffa di Poletti, giocare a calcetto o a tennis con il passaparola si ottiene il lavoro. Fortunati quelli che ci riescono. Emilia Patta, qui ci lasciamo, e allenati col calcetto o il biliardino. Va bene? Senz'altro. Buona serata a te. Ora ci fermiamo, c'è la pausa per la pubblicità. Voi intanto con le vostre riflessioni verso la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al 349-238-6666. Tra poco parleremo appunto di questa vicenda controversa, di questa ragazzina che è stata tolta alla famiglia perché hanno rasato i capelli, perché non voleva mettere il velo. Già vedo diversi messaggi, chi dice che hanno fatto bene, chi dice che invece è stata una misura ultra esagerata, ultra repressiva. Ne parliamo tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora, dopo i vari temi toccati, direi di cambiare argomento, un argomento che vi anticipavo già all'inizio, che è nelle notizie principali, la storia di questa ragazzina di 14 anni alla quale i genitori hanno rasato completamente i capelli perché famiglia originaria del Bangladesh si rifiutava di mettere il velo. Ne parleremo tra pochissimo, intanto ci sono i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-2386-666 per i vostri commenti. Prima però di passare all'altro tema e di ricordarvi quali sono le notizie principali, perché non tutti riescono a accendere puntualmente alle 21, ma fatelo, così un giorno non potrete dire io non lo sapevo. C'è questo messaggio di questo ascoltatore che scrive da Calgary, West Canada, perché sapete che Effetto Notte è ascoltato in tutto il mondo. Dice, a proposito di imitazioni di questi dazi messi da Trump, no? Dice, le comunico che qua è in vendita anche da Costco, che è un enorme retail nordamericano, quindi un grande centro commerciale americano, dice, c'è in vendita il Cambozola, che è un mix tra Camembert e Gorgonzola con tanto di pagina Wikipedia, sfortunatamente è anche buono, dice, è costoso, quindi ha un certo successo. Lo sappiamo, no? Quante imitazioni dei prodotti d'eccellenza italiani, poi dopo mettono i dazi sui nostri originali. Comunque, insomma, questa è una polemica che andrà avanti e vediamo come se la vedono tra Europa e Stati Uniti, anche in particolare tra Italia e America. Prima, quindi, vi dicevo, prima di andare al prossimo tema così importante e anche controverso, questi i fatti principali. Bologna, la procura toglie la figlia 14enne alla famiglia, i genitori la rasavano a zero perché non indossava il velo, la studentessa di terza media toglieva però il copricapo appena fuori casa. Femminicidio, uccise la moglie a martellate, il tribunale di Bari lo condanna a 6 anni e 3 mesi passati ai domiciliari. Movimento 5 Stelle, Grillo e Di Battista indagati per diffamazione contro l'ex candidata sindaca a Genova Cassimatis e lieve malore per Di Maio, ma nulla di preoccupante. Partito Democratico, ultime ore di voto nei circoli, Renzi avanti ma elite sui numeri. E poi Stati Uniti, Trump firma i decreti per combattere il deficit commerciale americano nei confronti dei partner e dice siamo in guerra commerciale. E su Obama la Casa Bianca annuncia sempre più elementi contro di lui. L'omicidio di Alatri, uno dei fermati, dice io non c'entro, il GIP conferma gli arresti, oggi camera ardente per il ventenne pestato a morte, domani i funerali. Allora, saluto Gialettore Gassani, che è presidente degli Avvocati Matrimonialisti Italiani, nonché presidente nazionale fondatore dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia. Gassani, buonasera. Buonasera a voi. Quindi, dicevamo, la storia di questa ragazzina che è emersa oggi, sembrava così una notizia di poche righe, ancora non si capiva da dove provenisse, quali erano le questioni importanti di questa vicenda, e poi avete visto, è praticamente il primo titolo di tutti i siti. È la storia appunto di una ragazzina di terza media, di una famiglia originaria del Bangladesh che vive a Bologna, alla quale i genitori hanno rasato completamente i capelli perché si rifiutava di mettere il velo. Questa ragazzina lo ha raccontato a scuola, si è sfogata con gli insegnanti, l'hanno detto la preside ha avvisato le forze dell'ordine e la procura ha deciso così, questa è la notizia che è arrivata in serata, di sottrarre questa ragazzina e le altre due figlie più grandi a questi genitori per maltrattamenti. Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, dice dobbiamo spiegare a questi genitori che vengono in Italia che devono educare i loro figli non solo in base alle loro convenzioni più o meno religiose, anche se questo caso mi sembra proprio di un tipo di autoritarismo che noi negli anni 70 chiamavamo autoritarismo familiare. Dice bisogna far capire loro che se si vuole essere italiani bisogna adattarsi alle nostre leggi e alla nostra Costituzione. Lei cosa ne pensa, Gassani, di questa vicenda? Ma io sono perfettamente d'accordo con il sindaco di Bologna, sono perfettamente d'accordo con la procura di Bologna, quella minorile, e quindi dei giudici che poi hanno messo il provvedimento. Perché ferma la libertà religiosa di indossare il velo, ci deve essere anche la libertà religiosa di non indossarlo, ma soprattutto c'è una questione di fondo che va analizzata. I bambini vanno rispettati, a prescindere dal credo religioso dei loro genitori. Ora, la bambina in questione aveva già compiuto 14 anni, che è una bambina con una struttura psicologica piuttosto importante, che poteva esprimere anche un dissenso. Il fatto che sia stata rapata a zero e quindi umiliata in quel modo, per la nostra legge alla quale qualsiasi straniero deve inchinarsi per stare in Italia, perché questo lo dice anche la nostra Costituzione, per la nostra legge questo è un grave maltrattamento, perché crea un disagio psicologico enorme in questa bambina davanti a tutti, la quale tra l'altro aveva espresso un desiderio ed è stata punita. È stata punita in maniera selvaggia perché chiaramente in un contesto scolastico una bambina rapata a zero semplicemente perché aveva rifiutato il velo è una bambina appestata. Per fortuna la preside di questa scuola ha avuto la prontezza e il spirito di informare immediatamente le forze dell'ordine e la magistratura, la quale chiaramente senza fare una questione religiosa ha dovuto applicare alla lettera la nostra legge. Ora non è più possibile pensare che ci sia una integrazione tante religioni in tutto il nostro paese senza il rispetto dei minori. Quindi credo che questo sia una prima sentenza, ma secondo me forse anche di una lunga serie, perché la questione del velo a scuola sta diventando un argomento quotidiano. Quindi attenzione, tutti possono professare la propria religione, a patto che però i bambini non vengano mortificati, umiliati, perché scatta l'articolo 572 del codice penale che parla di maltrattamenti in famiglia che poi vanno a determinare addirittura l'allontanamento dei figli dai genitori è in automatico e addirittura la decadenza, la sospensione della responsabilità genitoriale, cioè addirittura la cancellazione dei genitori dalla vita dei figli. Attenzione quindi, questi stranieri devono essere informati, devono sapere come funziona il nostro paese, che fino a quando si professa una religione, questo fa parte della libertà religiosa, però quando si va a mortificare un bambino, soprattutto una bambina, tagliarle tutti i capelli, quasi a volerla punire pubblicamente, ha fatto bene sia la giustizia minorile, ma attenzione, proprio scatterà la giustizia penale ordinaria, quella degli adulti. Ci saranno due provvedimenti, uno in ordine alla collocazione delle bambine in una casa famiglia, altra è poi l'incriminazione gravissima nei confronti dei genitori che prevede anche pene piuttosto severe. Gassani, fra l'altro, appunto come diceva lei, si tratta di una bambina, quindi ancora più umiliante e mortificante il fatto di arrivare a scuola senza capelli. Sui ragazzini sì, si sa, non c'è nessun problema, sono stati i capelli corti, però per una bambina poi di quell'età... La morte civile di una bambina, come far morire una figlia, questo è il problema. Perché c'è qualcuno che si chiede appunto qual è il limite tra il diritto dei genitori, che siano di qualsiasi religione o laici, atei, eccetera, eccetera, di educare i propri figli secondo i propri principi, i propri valori, e invece lì dove inizia una coercizione che appunto finisce nel reato. La nostra legge non prevede che in nome di un Dio o in nome di una religione si possa sacrificare un figlio a qualsiasi livello, dall'infibulazione, dal taglio dei capelli, dall'impossibilità di socializzare o di poter parlare la lingua del paese dove si ospiti. Per cui la nostra legge non può assolutamente tollerare, fare differenze. Purtroppo molte volte capita che la nostra legge chiuda un occhio, per esempio, per i figli dei nomadi che magari stanno in mezzo alla strada a chiedere l'elemosina e non si interviene come si farebbe invece con il figlio degli italiani. Ma ultimamente si sta provvedendo. Cioè, è però il razzismo consiste nel far finta di non vedere queste cose, è proprio l'esatto contrario. Non pensare che il diritto di una bambina islamica debba essere rispettato, cioè quello di non essere rapata a zero davanti a tutti, è proprio quello il razzismo. Invece noi dobbiamo tutelare tutti, fermo restando che il rispetto del credo religioso deve essere un valore non negoziabile nel nostro paese, per cui in qualsiasi scuola si può andare col velo, si deve andare secondo il proprio credo, si può anche accettare di avere una dieta particolare per la propria religione, io su questo sono perfettamente d'accordo, ma quando si arriva in nome della religione, per esempio all'infibulazione, che è un altro problema serio nel nostro paese, che è un reato ma che si continua a praticare nel nostro paese, no? Tutti i giorni purtroppo non si scopre, perché adesso l'infibulazione si fa clandestinamente. Esatto, si fa a domicilio e tante bambine sono state infibulate ogni giorno da questo periodo religioso. L'Italia non può far finta di niente, non possiamo girare la faccia dall'altra parte in nome di un buonismo e di un politicamente corretto che sta distruggendo la vita di tanti bambini. Per sfortuna la magistratura ci sta mettendo una pezza rispetto a una cultura che secondo me non ci porta da nessuna parte. Per cui viva la libertà di espressione e di religione, ma attenzione, guai a toccare un bambino o una bambina, perché a questo punto, siccome ci troviamo sul territorio nazionale, noi abbiamo il dovere di applicare la nostra legge, altrimenti questa gente deve tornare al loro paese. Chiarissimo, avvocato Giannettore Gassani, grazie. Perfetto. Grazie, buona serata. E passiamo all'omicidio di Alatri, e su questo coinvolgo Gio Carabolo, cronista del quotidiano La Provincia di Frosinone. Ciao Gio. Ciao Roberto. Allora, gli sviluppi quali sono? Che i due fermati, due in carcere, Mario Castagnacci e come si chiama, Paolo Palmisani, ecco, okay. Mi ricordavo il nome, Paolo Palmisani, per loro è stata confermata il fermo in carcere. Uno dei due però ha detto: io non c'ero quando è stato picchiato il ragazzo, ero in piazza, non ero lì tra quelli che lo picchiavano. Roberta, la cronaca, insomma, voglio dire, parla da sé, però dobbiamo stare un pochino cauti, perché non siamo giudici e perché in Italia, grazie a Dio, esiste il terzo grado di giudizio. Aspetteremo. Io non so chi c'era in quella piazza, tu non c'eri, io non c'ero, non c'era chi c'era ha parlato, quindi assolutamente non omertosi, nessuno dall'altro è stato omertoso, questo ci tengo tanto a sottolinearlo, per ringraziare anche quei ragazzi che, malgrado la giovanissima età, hanno fatto nomi e cognomi. Io purtroppo non c'ero e ahimè, raccontare la cronaca di quella giornata per me è molto complicato, di quella nottata più che altro, scusami, è complicato proprio perché non c'ero. Ci sono state altre volte, ma quella sera no. I due di cui si fanno i nomi, sì, sono stati fermati per un delitto efferato, però i testimoni parlano di tanta gente. Io non voglio che si inquini questa indagine da latrenze, probabilmente, perdonami, anche io sto inquinando la cronaca, ma da latrenze non voglio che venga inquinata questa indagine, perché poi le notizie, lo sai meglio di me, noi siamo giornalisti, dobbiamo fare notizia, dobbiamo fare qua, dobbiamo fare là, però per carità, lasciamo che questi testimoni, i testimoni hanno detto tutto quello che hanno visto, hanno raccontato tutto quello che è accaduto e non c'è stato neanche un mezzo omertoso in quella piazza di Alatri. Perché quella era l'accusa all'inizio, no? Nei confronti dei cittadini di Alatri. Sì. Senti, invece oggi, Giorgio, c'è stata la camera ardente, no? del povero ventenne Emanuele Morganti, no? Pestato a morte. Lo stavamo tutti aspettando oggi pomeriggio, sempre per colpa probabilmente di qualche cronista che i fatti suoi non se li fa mai. Sì, c'è stata la camera ardente, in tanti sono partiti, sono andati a Roma, hanno dato l'ultimo saluto a questo ragazzo che sicuramente è capitato lì per caso e niente, domani ci saranno i funerali. A Tecchiena il paese di Tecchiena non di è il Emanuele. Paese, no, Tecchiena è la frazione, Alatri ha 14 frazioni e non vogliamo assolutamente dividere Alatri da Tecchiena o Tecchiena di Alatri. Tecchiena è una frazione di Alatri, ma Tecchiena è Alatri, cioè, non è una cosa diversa, quindi evitiamo. E per dire la chiesa, no? Sarà lì alle 15 il funerale nella chiesa di Tecchiena, in questa frazione, perché lui viveva lì. Assolutamente sì, è giusto che sia così, è ovvio. Io sono nata al centro di Alatri, quando morirò mi auguro che la parrocchia dove celebreranno i miei funerali sia Santa Maria Maggiore, dove e mi hanno speriamo il più in là possibile. Grazie. Assolutamente. Grazie, sì. Gio Carabolo. Ciao, buona serata. Grazie, ciao. Roberta, ciao. Viabilità. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tante notizie raccontate sinora e adesso vi ricordo anche quali sono le principali. Abbiamo parlato adesso del caso di Alatri e poi abbiamo parlato lungamente di questa vicenda della ragazzina originaria del Bangladesh, dei genitori che le hanno rasato i capelli perché non vuole portare il velo. Avete sentito il parere dell'avvocato matrimonialista, esperto di diritto di famiglia, Gassani. Qualcuno dice: vorrei il suo recapito perché gli devo sottoporre un caso particolare, straordinario, ma basta, insomma, che cercate su internet. Trovate i riferimenti. Poi le notizie principali appunto sono questa della vicenda di questa ragazzina e poi Trump che ha firmato i decreti, due decreti per combattere il deficit commerciale americano nei confronti dei partner, e la Casa Bianca parla dice siamo in guerra commerciale, mentre il Presidente del Consiglio Gentiloni, il nostro Presidente del Consiglio, dice che bisogna scommettere più che mai sul libero mercato. E poi indagati Grillo e Di Battista del Movimento 5 Stelle per diffamazione contro l'ex candidata sindaca a Genova, Assimatis, che poi Grillo ha silurato, lei dice è una battaglia di trasparenza. C'è stato un malore oggi per Di Maio dei 5 Stelle, ma sembra nulla di preoccupante. E poi la vicenda dell'adolescente e l'omicidio di Alatri, uno dei due fermati dice io non c'entro, c'è stato questo interrogatorio di garanzia, ma il GIP conferma gli arresti. Il 2 aprile, domenica, è giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo e su questo saluto il nostro Gianluca Nicoletti, che ritrovate ogni giorno a Melog dopo le 12. Ciao Gianluca. Ciao, buonasera, ciao. E Sky trasmetterà il 2 aprile, in occasione appunto di questa giornata, il primo film italiano sul tema dell'autismo. Andrà in onda alle 21.15 su Sky Arte HD e alle 23.15 su Sky Cinema Cult HD. Poi si replica il giorno successivo alle 19.35 sugli stessi canali di Sky. E questo progetto nasce proprio grazie a un'idea di Gianluca Nicoletti ed è diretto da Massimiliano Sbrolla. Tu in questo film, in questo docufilm, Gianluca, compi insieme a tuo figlio Tommy, ragazzo autistico, da poco è diventato maggiorenne, un lungo viaggio attraverso l'Italia, no? Sì, beh, abbiamo lavorato un anno per fare questo film, abbiamo cominciato a raccogliere delle storie, le persone che ci scrivevano, che mi scrivono tutti i giorni, anche per ormai, anche grazie a Radio 24, abbiamo tenuto sempre presente il tema della disabilità, della diversità, sono anni che ne parliamo, quindi siamo anche noi diventati un punto di riferimento. Poi alla fine siamo riusciti a trovare un po' di soldi, ho cominciato a fare una colletta per noi, gli studenti della LUIS, a Natale passato hanno fatto una raccolta, abbiamo iniziato a girare, abbiamo fatto il primo shooting e poi abbiamo chiesto alle famiglie, ci aiutate, abbiamo fatto un crowdfunding. In tre settimane, è un record vero, abbiamo raccolto quello che ci serviva per fare il film. Abbiamo girato tutta Italia alla ricerca dei ragazzi autistici fantasma, di quelli scomparsi, di quelli che è difficile parlarne per le stesse famiglie, perché molte volte c'è un po' di timore, un po' di vergogna per raccontare un uomo di 30 anni, 40 anni che sta in casa e ha il cervello di un bambino molte volte, oppure ha dei problemi di relazione tali per cui non si riesce a non affrontare l'impatto con la gente che è normalmente abituata a relazionarsi tra di loro. Ma anche e soprattutto grazie a te, al tuo lavoro, al tuo interessamento da anni, Gianluca, c'è sempre più consapevolezza, no? Intorno a questa cosa c'è sempre più conoscenza anche rispetto al prima non capire neanche di cosa si trattasse effettivamente, c'è ancora del mistero su questa cosa, però insomma mi pare che ci siano più conoscenze e anche c'è più attività nei confronti dell'autismo. Tommy e gli altri, ricordo questo film su progetto di Gianluca Nicoletti. Grazie Gianluca e buon lavoro. Grazie. Ciao Gianluca. Adesso invece è tempo di capire che tempo farà in questo fine settimana e temo che il nostro Paolo Corazzon, nonostante di Trebimeteo, nonostante sia portatore sano di sole, non ci porti tanto sole. Paolo. Sì, questo fine settimana le cose un po' cambiano. Buonasera Roberto, buonasera Ciao. A tutti, però ben venga anche un po' di pioggia, guarda che ne abbiamo davvero bisogno e poi le temperature di questi giorni erano davvero oltre ogni misura. A me non dispiacevano, devo dire. Lo so benissimo. Fatto sta che domani già arrivano le prime piogge del pomeriggio, comunque sulle regioni di nord-ovest e in Sardegna, quindi in gran parte d'Italia domani tutto sommato il tempo ancora tiene, però comunque un po' di nuvole in più già iniziamo a vederle. Invece sarà domenica la giornata peggiore, con piogge sulle regioni tirreniche, proprio tutte dalla Liguria fino ad arrivare alla Calabria, anche sulle isole maggiori, e insisterà qualche pioggia anche al nord, sempre e soprattutto sul versante sulle regioni di nord-ovest. Diciamo che il versante adriatico e il nord-est è la zona che rischia meno precipitazioni, però un po' dappertutto domenica più nuvole, temperature in diminuzione, insomma, comincia aprile e speriamo, lasciamelo dire, che porti un po' più di pioggia. Ecco. Un po' più di pioggia, ma poi il sole torna, è vero. Sì, torna. La settimana prossima si partirà con pioggia al sud, ma poi in settimana tutto si sistema rapidamente. Ed è meglio anche per te. Grazie Paolo Corazzo di Trebimeteo, buon tempo a te comunque sia. Buon tempo a tutti. Ciao Paolo. Noi ci risentiamo come al solito per brevi aggiornamenti alle 22.